Sura 55esima. Ar-Rahman. Il compassionevole. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Il compassionevole ha insegnato il Corano, ha creato l'uomo e gli ha insegnato ad esprimersi. Il sole e la luna si muovono secondo calcolo preciso, e si prosternano le stelle e gli alberi. Ha elevato il cielo e ha eretto la bilancia affinché non frodiate nella bilancia. Stabilite il peso con equità e non falsate la bilancia. La terra l'ha disposta per le creature, vi crescono frutti e palme dalle spate protette, e cereali nei loro involucri e piante aromatiche. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Creò l'uomo di argilla risonante come terraglia, e i demoni da fiamma di un fuoco senza fumo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Il Signore dei due Orienti e il Signore dei due Occidenti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Ha lasciato liberi mari affinché si incontrassero, ma fra loro vi è una barriera che non possono oltrepassare. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Da entrambi si estraggono la perla e il corallo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? A lui appartengono le navi, alte sul mare come colline. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Tutto quel che è sulla terra è destinato a perire. Solo rimarrà il volto del tuo Signore, pieno di maestà e di magnificenza. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Lo invocano tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra. È ogni giorno in nuova opera. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Presto ci occuperemo di voi, o due pesi. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? O consesso dei demoni e degli uomini, se potrete varcare i limiti dei cieli e della terra, fatelo. Non fuggirete senza un'autorità proveniente da Allah. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Sarà inviata contro entrambi fiamma ardente e rame fuso, e non sarete soccorsi. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Quando si fenderà il cielo e sarà come cuoio rossastro, quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In quel giorno, né gli uomini né i demoni saranno interrogati sui loro peccati. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Gli empi saranno riconosciuti dei loro segni e afferrati per il ciuffo e per i piedi. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Sarà detto loro, ecco l'inferno che i colpevoli negavano. Vagheranno tra esso e il magma ribollente. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Per chi avrà temuto di presentarsi al cospetto del suo Signore, ci saranno due giardini. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Di fresche fronde. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In entrambi sgorgano due fonti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In entrambi due specie di ogni frutto. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Saranno appoggiati i loro ospiti su divani rivestiti internamente di broccato, e i frutti dei due giardini saranno a portata di mano. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Vi saranno colà quelle dagli sguardi casti, mai toccate da uomini o da demoni. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Saranno simili a rubino e corallo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Qual altro compenso del bene se non il bene. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? E ci saranno altri due giardini oltre a quelli. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Entrambi di un verde scurissimo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In entrambi due sorgenti sgorganti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In entrambi frutti, palme e melograni. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? E fanciulle pie e belle. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? E fanciulle dei grandi occhi neri, ritirate nelle loro tende. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Che nessun uomo o demone mai han toccato. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Saranno appoggiati su verdi cuscini e meravigliosi tappeti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Sia benedetto il nome del tuo Signore, colmo di maestà e di magnificenza.